Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Brazzale, il burro e i formaggi attraverso le generazioni. Di Alessandra Scaglioni. La Brazzale produce burro e formaggi con i marchi Burro delle Alpi, Gran Moravia, Alpilatte, Zogi e Verena. Vende in 54 paesi in tutto il mondo. È un'impresa familiare del Vicentino ed è la più antica industria lattiero-casearia italiana. Roberto Brazzale, settima generazione, è il presidente della Brazzale S.P.A. Allora, sappiamo con certezza che alla fine del Settecento, sotto la Repubblica Serenissima, i nostri antenati svolgevano il commercio tra l'altopiano di Asiago e la pianura vicentina. Il loro soprannome era già Caio, però Caglio, per cui evidentemente già da prima questa attività era esercitata. E da parte di mamma il soprannome era Bisacchese, che è un fiore di prato da cui si ricava un caglio vegetale. Alla fine dell'Ottocento i nostri antenati scesero dall'altopiano di Asiago alla pianura vicentina e si localizzarono vicino a Thiene, a Zanè, dove i commerci erano più facili. Thiene è il centro commerciale ancora oggi del Veneto per i formaggi. Tra le due guerre, la famiglia sviluppa un commercio di formaggi, anche se fino alla Seconda Guerra Mondiale il burro resta il prodotto principale. Poi c'è una novità. Se vogliamo vedere le novità, la novità più importante, diciamo, del secolo scorso è stata l'inizio dell'avvio della produzione di formaggi grana nel Vicentino, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in forma pionieristica, tant'è che nel 54 alla fondazione del Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano noi abbiamo partecipato e siamo ancora oggi soci del consorzio e siamo produttori di quantità rilevanti, lo siamo stati per molti decenni, di formaggio grana padano. La produzione e il giro d'affari crescono, accompagnando lo sviluppo dei consumi del secondo dopoguerra. Ma fino agli anni 90 si tratta soprattutto di consumo interno. Poi gli orizzonti dell'azienda si allargano, innanzitutto per la commercializzazione. Sì, sono successe delle cose importanti e anche meravigliose. Il mondo si è aperto, la guerra fredda è terminata. Alla nostra generazione si è aperta una serie di opportunità che le generazioni precedenti non avevano avuto. Sia la riforma della PAC, l'estensione dell'Unione Europea, la sottoscrizione lo sviluppo degli accordi internazionali sul commercio. Tutta una serie di avvenimenti che a partire all'incirca dalla fine degli anni 80 e primi anni 90 hanno aperto degli scenari completamente nuovi. Per prima cosa l'export è diventato il nostro obiettivo, cioè vendere in queste nuovi mercati che si aprivano, diventavano accessibili, vendere i nostri prodotti. Beh, chiaramente innanzitutto nei paesi dove la tradizione della cucina italiana era più diffusa, anche per il fatto che in quei paesi vivevano degli emigrati da generazioni magari italiane, in linea di massima la Germania, l'Austria, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Francia, sia i paesi dell'Unione Europea sia anche qualche paese extraeuropeo. Anche la produzione diventa internazionale, prima in Brasile, nel Mato Grosso do Sul, con quello che oggi è diventato un maxi allevamento di suini e bovini, che punta alla sostenibilità ambientale, poi in Europa, in Repubblica Ceca. In Europa abbiamo avuto il privilegio di scoprire una regione straordinaria, che è la Moravia, una regione a vocazione, forte vocazione agricola, dove circa nel 2000 abbiamo iniziato con una joint venture a sviluppare un piccolo caseificio che lì esisteva, al fine di realizzare una produzione di formaggio duro da grattugia di tipo grana, come era nel nostro know-how da decenni, ma questo in un contesto però che prevedesse una filiera di produttori, di fornitori con delle caratteristiche particolari, cioè con degli standard di impatto sull'ambiente e di disponibilità di terreno e di benessere animale che andavano a porsi ai vertici dell'esistente sul mercato. Anche qui la ricerca della disponibilità di terreno si sposta con la ricerca della sostenibilità ambientale, un tema su cui il gruppo lavora da tempo e su cui ha ottenuto di recente la certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare, rilasciata dal gruppo internazionale DNV, proprio per la produzione in Repubblica Ceca, oltre che per quella del Verena. Oggi la Brazzale produce burro, formaggio e formaggi tipici con 6 impianti produttivi distribuiti in Italia, Repubblica Ceca e Brasile. distribuisce in 54 paesi, tra Europa, Russia, Medio Oriente, Sud-Est Asiatico, Australia, Stati Uniti, Marocco. La gestione è in mano alla famiglia, assieme a un'altra famiglia di produttori di formaggi con cui è stata attuata una fusione. Oggi la nostra azienda, come da sempre, è un'azienda strettamente familiare, in senso strettissimo. Ciò significa che siamo noi tre fratelli Brazzale, oltre ai fratelli Zaupa, che sono nel nostro gruppo da circa una decina d'anni, che gestiamo le attività direttamente e prendiamo le decisioni più importanti. È chiaro, affiancati da alcuni fidatissimi e preparatissimi collaboratori che per lo più sono cresciuti in azienda. Sono persone che hanno dimostrato molte volte di identificarsi in modo totale con l'azienda, con la sua storia. Con loro c'è un rapporto molto stretto anche di stima personale, molto spesso anche di amicizia. Devo dire che non abbiamo mai avuto esperienza di manager professionali che forse sono più adatti ad aziende di diversa struttura, di diversa prospettiva probabilmente. Il fatturato del 2010 è stato di 152 milioni di euro. La percentuale maggiore arriva dal mercato interno italiano e da quello europeo. L'Europa è la nostra casa oggi, sia il sistema doganale, sia il sistema normativo, sia l'apertura del mercato, la possibilità di muovere capitali, persone, merci, segnano che è l'Europa la nostra, se vogliamo dire, la nostra nazione, la nostra patria oggi. Perciò questo è la minima entità geografica sulla quale si ragiona. La tradizione e l'azienda però restano italiane. Senza dubbio noi rimaniamo italiani fino al midollo, veneti, asiaghesi. Guardiamo con molta soddisfazione alla paternità che rivendichiamo assieme a tanti altri colleghi bravissimi su queste produzioni tipiche che vengono dall'intelligenza, dalla fatica di tanti come i nostri nonni che nei secoli hanno via via evoluto produzioni che sono diventate quelle che sono oggi, cioè se mi permette di dire le più qualificate del mondo. Siamo produttori di formaggi Asiago, DOP, siamo produttori di provolone valpadana, produttori di paste filate e, come le dicevo, produttori di grana padano in modo piuttosto consistente. L'ottava generazione, i figli dei tre fratelli Brazzale, è in arrivo. Alcuni hanno già messo piede in azienda e sul tema che riguarda il futuro dell'azienda, la domanda non si pone. La forza di un'azienda familiare è che non si pone queste domande, va avanti. Lavoriamo soprattutto tenendo fede ad alcuni principi che sono quelli che noi ci auguriamo di riuscire a trasferire ai nostri figli e sono quelli innanzitutto del senso della sobrietà e del risparmio ma soprattutto il senso della prevalenza degli interessi sociali e collettivi su quelli individuali. Chi è membro di un'impresa familiare deve sapere e deve accettare l'idea che questa non è un bene nella disponibilità dell'individuo, ma è l'individuo che è a servizio di un organismo complesso e che deve durare oltre la sua vita e andare oltre i propri specifici individuali interessi. In questo senso io mi auguro che l'azienda continui a restare un'azienda familiare perché è un modello che comporta dei vantaggi enormi, soprattutto in termini di passione e di ottica, che è sempre di lunghissimo termine, deve essere sempre di lunghissimo termine. Si ragiona da una generazione all'altra, molto spesso si dice bene tanto ragazzi facciamo questa cosa, poi sarete voi a portarla avanti quando sarà. Lei sa che purtroppo molti problemi nascono quando nelle aziende l'ottica è di brevissimo termine. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.